Nel 1976 lo zoologo Richard Dawkins pubblica Il gene egoista. In questo libro Dawkins propone una radicale revisione della teoria dell'evoluzione così come era stata formulata da Darwin a metà 800. Al posto della specie ci mette il gene, quella che viene definita come la più piccola porzione di DNA. Gene che escogiterebbe fior di strategie, fra cui il nostro stesso corpo, così come ce lo percepiamo, pur di replicarsi il più a lungo possibile. Alla conclusione del libro, tuttavia, Dawkins non resiste ad una tentazione, quella di assecondare l'analogia di questo elemento con un altro tipo di replicatore, che più recentemente sarebbe emerso sul nostro pianeta, e quest'altro tipo di replicatore altro non sarebbe che il meme. Questo meme sarebbe allora l'unità di trasmissione culturale, una particella di informazione che si garantirebbe la sopravvivenza saltando di mente in mente e propagandosi per contagio nell'ecosistema della cultura umana, come dice Francesco Ianneo nel ben argomentato volumetto che si intitola per l'appunto Meme, genetica e virologia di idee, credenze e mode, uscito recentemente da Castelvecchi. Da questo punto di vista, ovvero dal punto di vista della memetica intesa come scienza, allora cristianesimo, marxismo, Babar Room, golfini di Kashmir, gomma da masticare, yo-yo, mai buongiorno Sabrina Ferilli e anche l'epistemologia evoluzionista, sarebbero semplici memi in lotta fra loro per impossessarsi della pole position nei nostri cervelli. Io stesso, in questo momento in cui credo di parlarvi in piena autonomia, non sarei che uno strumento di qualche meme particolarmente rognato che sta disperatamente giocandosi le sue ultime chance per replicarsi. Come tutte le analogie, ovviamente anche questa ha i suoi limiti. La replicazione del gene in un nuovo individuo comporta una trascrizione che spesso non risulta priva di errori. Le conseguenze a volte non si notano, a volte si notano dopo molte generazioni e a volte ne conseguono quelle che in genere vengono definite malattie ereditarie. In certi casi, come nella coria di Huntington, l'individuo riesce a generare ugualmente perché la malattia si manifesta dopo i 40 anni, ma in altri casi la malattia è letale molto presto, prima che il gene egoista riesca nel suo scopo. Racconta Boncinelli nel suo volume dedicato ai nostri geni, uscito dall'Einaudi nel 98, per esempio, racconta Boncinelli che la regina Vittoria d'Inghilterra ebbe 9 maschi emofiliaci fra i suoi discendenti. In credito di una proteina necessaria alla coagulazione del sangue, un tempo alla minima ferita erano tutti condannati a morire. La distrofia muscolare di Duchenne è un altro caso di errore genetico che si paga caro. Se un errore avviene fra i memi, invece, è mia impressione che non avvenga un granché. Ovvero, non avviene un granché di diverso dalla miseria a cui siamo soliti constatare, che siamo soliti constatare nelle culture che ben conosciamo. Le visioni del mondo di cui facilmente possiamo fare esperienza sono ben lontane dall'essere unitarie e coerenti. Chi scrive libri, per esempio, non deve neppure aspettare di contraddirsi da un libro all'altro. Lo fa anche per direttissima nel medesimo libro. Trascurando i filosofi, che in questo sono degli specialisti, potrei citare Messeghi che a pagina 139 del suo Ha ragione la natura dice che per il bene del fegato occorre eliminare dalla dieta alcuni vegetali come le rape. Quelle stesse rape che, insieme ai carciofi e alle carote, sono il ben di Dio consigliate a chi soffre di fegato, a pagina 176. Potrei citare anche il caso, a proposito di contraddizioni notevoli di quel parlamentare italiano che, essendo anche avvocato nell'interesse del suo cliente, presumo, si è trovato a eccepire la costituzionalità di una norma processuale che lui stesso, in quanto parlamentare, aveva contribuito ad istituire presentando nel disegno di legge. Contraddizione minima, peraltro. Se la vediamo alla luce del fatto che il medesimo avvocato è stato eletto in Parlamento nelle liste di Forza Italia dopo aver militato lungamente in Soccorso Rosso. Così vanno le cose al mondo e ciò non impedisce ai memi relativi tutto il successo che tocca loro. Da Wittgenstein a Berlusconi è tutto un fiorire di strutture memetiche contraddittorie e pur tuttavia altamente infettive. È vero che il modello esplicativo della propagazione culturale per memi è più sensato in definitiva di quello che vorrebbe vittoriosi al mondo soltanto le idee migliori, quelle più sane e più belle. Ma è anche vero che tale modello, se quello si basa su un ottimismo un pochettino privo di fondamenti, questo modello invece si basa su alcune metafore. L'informazione non è un corpuscolo fisico, non si trasmette da persona a persona come un segnale lungo una linea telefonica e soprattutto la mente non è un ripostiglio né sede di alcunché. Se definiamo la mente come un collettivo di funzioni, ecco che a ciascuno viene restituita la sua responsabilità in ordine alle opinioni che professa e dai comportamenti che ne conseguono. Non a caso, fra i progenitori della memetica, viene citato Gustave Le Bon, il medico francese che nel 1895 pubblicò La psicologia delle folle, sostenendo la tesi che la capacità di intendere e di volere del singolo sia sempre subordinata alla massa cui il singolo appartiene. Così si giustifica qualsiasi nefandezza e si spiana la strada al regime autoritario. Grande estimatore di Gustave Le Bon, infatti, fu per l'appunto Benito Mussolini.